Il consueto benvenuto, la buona serata a tutti voi, spazio del venerdì, quello di Arden Davy Live, sempre su Rock FM, la voce è quella di Marco Gravelli che vi dà il benvenuto. Come sempre ringrazio voi all'ascolto, ringrazio il mio personale autore Simone Scavo che anche per questa sera ha preparato tutte le tracklist e soprattutto le note biografiche delle band, perché il venerdì si entra nella situazione live, in questo metaforico palcoscenico, questo stage dove saliranno sul palco. Nella prima mezz'ora i Saga e nella seconda mezz'ora i Primal Fear. Musica quindi dedicata a un certo pomp rock nella prima parte e a un classico power metal tedesco nella seconda. Partiamo con i Saga. L'album in questione è un doppio CD, è il loro secondo album dal vivo, venne pubblicato nel 1988, si intitola The Tours. Ci sono ben 22 tracce, 12 nel primo e 10 nel secondo CD, registrate durante il tour europeo che hanno tenuto nel 1997 per un totale complessivo di quasi due ore. La formazione è composta da Steve Negus alla batteria, Jim Gilmore tastiere e cori, al basso Jim Crichton, il fratello Ian Crichton alla chitarra e poi voce e tastiere Michael Seller. Come avete sentito nel elencare questi personaggi che fanno parte della lineup dei Saga, ben due tastiere. In effetti le tastiere sono, se non l'elemento primario, quasi della loro musica. Questa band arriva dal Canada, esattamente da Toronto, a metà degli anni Ottanta, da quella parte, quindi dalla metà degli anni Ottanta in poi, ha avuto un buon successo in Europa e soprattutto in Germania. Il primo pezzo che vi propongo si intitola Careful Where You Step, la cui versione in studio si trova nell'album Silent Night del 1980. In parte li possiamo unire, paragonare agli Styx, ai Kansas, dico in parte, il sound di questa band che, come vi dicevo, arriva dalla città di Toronto, dal Canada. Leader e fondatori sono il bassista Jim Crichton e il cantante Michael Seller, che comunque è nato in Galles. Iniziamo quindi a parlare dei loro primi prodotti musicali, perché loro nascono addirittura negli anni 70 col nome di The Pockets. Nel 77 lo cambiano nell'attuale saga e arrivano all'esordio sul mercato nel 78 con l'omonimo album, che ha un buon successo, pensate, in Svezia e in Germania. Questo gli permise di ottenere un contratto con la Polydor Records, che ne pubblicò nel 79 il secondo lavoro, Imagine Twilight, che riuscì a farli notare anche in Canada con la pubblicazione di diversi singoli e un tour europeo di spalla agli Styx e alla formazione dei Magnum. Andiamo ad ascoltare uno dei loro cavalli di battaglia, uno dei singoli più importanti, ne parleremo dopo anche. Si intitola On the Loose, la versione in studio si trova in Worlds Apart, pubblicato nel 1981. Saga. il loro terzo album dal titolo Silent Night, che vedeva l'ingresso del nuovo tastierista Gilmour, decidono di pubblicare il primo album dal vivo, si intitola In Transit, che li portò alla seconda posizione in Germania. Arriviamo al 1981, quando esce il quarto ottimo lavoro, Worlds Apart, che vedeva il sound evolversi e gran merito lo ebbe il produttore rapper Hein. Questo lavoro è considerato il loro capolavoro e si rivelò, diciamo, il loro maggior successo a livello commerciale, tanto da entrare nelle classifiche americane al 29esimo posto e conseguente disco d'oro, trascinato dal singolo On the Loose, che arrivò al numero 3 nelle posizioni di Billboard. Andiamo ad ascoltare un altro estratto da questo doppio CD dal vivo intitolato The Tours, motivo dal titolo How Long, che troviamo addirittura nell'album d'esordio risalente al 1978. Abbiamo ritrovato e ascoltato le note di How Long da questo lavoro The Tours, doppio CD dal vivo per la formazione dei Saga. Altri successi soprattutto in Europa sono stati nel 1983 l'album Head of Trails e nell'85 Behavior. Importante è il 1986 quando il batterista e il tastierista lasciano il gruppo per formare un progetto con le loro iniziali a livello di nome, ossia GNP. Pertanto i Saga ricorrono ad un session man per continuare la loro attività. A dimostrazione di ciò esce l'album Wildest Dream, che vedeva in copertina i soli tre musicisti rimasti per ribadire che erano ufficialmente un trio. L'album, uscito tramite la prestigiosa etichetta Atlantic Records, ha un buon seguito sempre qua da noi in Europa. Continuiamo con un altro brano che si intitola The Flyer. La versione in studio si trova nel lavoro Head of Trails, pubblicato nel 1983. It's always that second line halfway through. It's like, well, blah, blah, blah. Yeah! Another line! 7 di The Flyer. La versione in studio la trovate in Head or Trace, altro album che vi consigliamo sempre per questa vastissima discografia dei canadesi Saga. Arriviamo all'ultima parte della loro storia. Siamo nel 1992, c'è da segnalare il ritorno in formazione del batterista e del tastierista. Con la formazione ritrovata pubblicano nel 93 The Security of Illusion, che ancora una volta conferma i buoni risultati sia in Europa che nella loro patria, cioè in Canada. Nel 95 arriva Steel Umbrellas, dal sound più pesante rispetto al passato. Seguiranno molti altri album che confermeranno i buoni risultati del passato, soprattutto in Germania, dove hanno dei fan fedelissimi e un bel nutrito fan club. L'ultimo album in studio è stato pubblicato lo scorso anno e si intitola 10,000 Days. Alla fine del 2007 il leader Michael Sadler ha lasciato la band, comunque per motivi personali. Al suo posto è stato ufficialmente reso noto il 15 di aprile del 2008 il sostituto. È stato scelto Rob Moratti, cognome italiano direi, proveniente dai New Frontier. E arriviamo all'ultimo pezzo. Un brano che io mi ricordo bene perché la versione in studio la proponevo a Radio Peter Flowers, un pezzo che mi piace moltissimo, si intitola Don't Be Late, con il quale chiudiamo questa prima parte di Hard and Heavy Live, dove i protagonisti sono i Saga, con questo loro secondo CD doppio dal vivo dal titolo The Tours, pubblicato nel 1998. Zigulì, la mitica pallina è diventata grande con te. Ti ricordi quando eri piccolo che mangiavi le Zigulì? Sei cresciuto, ma il gusto di Zigulì ti rapisce ancora. Oggi le buonissime caramelle le puoi trovare nei gusti frutta, liquirizia e cioccolato, anche in comode confezioni pocket. Chiedile al tuo bar. Zigulì, il mito non si scorda mai. Rock FM Spot. In Flames, The Mirror's Truth, il fantastico ritorno della miglior melodica death metal band del mondo. Voce aggressiva, riff enormi, momenti di melodia ed un tiro da paura. Questo è il vero metal moderno. Questi sono gli In Flames, nei migliori negozi di dischi. Di nuovo il benvenuto su Rock FM, la seconda parte del nostro Arden Devi Live del venerdì. La voce di Marco Gravelli, dopo avervi proposto e presentato la formazione canadese dei Saga, entriamo nella seconda parte con una band di heavy metal tedeschi che si chiamano Primal Fear. L'album che andiamo a proporre si intitola The History of Fear e vi spiego il contenuto. È un cofanetto con un DVD ed un CD, entrambi dal vivo. Il DVD contiene due concerti, uno registrato al celebre Wacken Open Air Festival nell'agosto del 2001 ed uno registrato nell'ottobre dell'anno successivo durante il Black Sun Tour, più varie esibizioni live degli anni passati e due videoclip. Per quanto riguarda il CD, quello che prendiamo in considerazione si riferisce all'esibizione del Wacken Open Air Festival, quindi siamo nel 2001, dopo la pubblicazione dell'album Nuclear Fire. Vi sono in totale 9 brani più un intro. La line-up è composta da Ralph Schippers alla voce, Tom Naumann e Stefan Leibing alle chitarre, Matt Sinner, altro storico musicista basso e core, alla batteria abbiamo Klaus Sperling. Andiamo subito a proporre la traccia numero 2, praticamente è il brano che apre l'album, si intitola Angel in Black. Dopo l'intro, la versione in studio la troverete in Nuclear Fire del 2001, Primal Fear. Yeah. vestito di nero, Angel in Black. La versione in studio la trovate in Nuclear Fire. Questi sono i Primal Fear nella nostra seconda parte di Hard and Heavy Live. Sono loro i protagonisti. Heavy metal band tedesca che discograficamente sono molto prolifici, tanto che hanno una media praticamente di quasi un album ogni anno. Il leader è il bravo cantante Ralph Schippers ed il bassista Matt Sinner dei Sinner. Le copertine dei loro album sono contraddistinte dalla loro mascotte, che è un'aquila metallica. Per quanto riguarda Ralph Schippers, ha 43 anni ed è uno stimato vocalist del panorama metal. È attivo musicalmente dai primi anni 80 ed ha cominciato la sua carriera a 18 anni con la formazione dei Tyrant Pace, che qualche volta vi ho proposto. Ha inciso ben 3 album con quella band. Poi ha militato per un breve periodo proprio negli Halloween, solo per alcune date dal vivo, ed è entrato a far parte dei Gamma Ray, con i quali ha inciso i primi 3 album. La sua fuoriuscita dai Gamma Ray darà l'inizio a questo suo gruppo chiamato Primal Fear. Altro brano che andiamo a proporre, la versione in studio la troverete nell'omonimo album d'esordio del 1998, si intitola Chain Breaker. Beim nächsten Stück könnt ihr wieder voll und ganz mitmachen. Das ist der Opener von unserem ersten Album. Hier ist das Chain Breaker! Chainbreaker. Ripeto, la versione in studio la trovate nell'album d'esordio del 1998. Questa è presa da The History of Fear, un cofanetto DVD contenente questo CD live, che è il concerto del Wacken Open Air Festival del 2001. La band nasce alla fine del 1997 dopo che Shivers ha lasciato i Gamma Ray e dopo che viene a sapere che non è stato preso dai Judas Priest per sostituire Rob Halford. Praticamente era arrivato, diciamo, nella fase finale, erano rimasti lui e l'altro che poi è diventato all'epoca il nuovo cantante dei Judas. Per lui fu un durissimo colpo perché era praticamente sicuro di avercela fatta ed era un po' il suo sogno. Allora, a quel punto dice, non sto con le mani in mano, crea una band, contatta Matt Sinner e Tom Naumann, rispettivamente bassista e chitarrista dei Sinner, e come batterista sceglie Klaus Sperling. Registrano 4 brani per un demo e subito ottengono un contratto con la Nuclear Blast. L'anno seguente esce il primo omonimo album, che viene ottimamente accolto da critica, da pubblico, e che arriva al numero 48 nelle classifiche tedesche, e dal quale collabora anche Kay Jensen dei Gamma Ray, suonando la chitarra in qualche brano. L'anno seguente, nel 99, arriva il secondo album, Jaws of Death, un po' altalenante, ma dal punto di vista commerciale in linea con l'esordio, e questo gli valse il rinnovo del contratto con la Nuclear Blast per altri 4 album. Altro pezzo che andiamo ad ascoltare è quello che dà il titolo al lavoro dell'epoca, cioè Nuclear Fire. We go to the next one, it's the title track of the Nuclear Fire! Nuclear Fire, titolo del brano, titolo anche di quello che è considerato da molti il loro miglior album, che viene pubblicato nell'annata del 2001 e che arriva non solo al numero 37 in Germania, ma anche partecipa gli permette di partecipare al Gods of Metal del 2001. Difficile ripetere il successo, ma ci provano lo stesso con Black Sun, album che viene pubblicato nel 2002, che però risulta inferiore alle aspettative. Nonostante ciò, pubblicano questo DVD, cioè The History of Fear, nel quale è contenuto, diciamo così, in omaggio come bonus, questo CD dal quale vi sto presentando e proponendo le canzoni dal vivo, perché in effetti nella loro discografia un vero e proprio album live ufficiale non esiste, se non all'interno appunto di questo cofanetto. Dopodiché arriva la pubblicazione di Devil's Ground, siamo nel 2004, non particolarmente esaltante, che vedeva l'ingresso di Randy Black alla batteria, ex Annihilator ed ex Rebellion. Altra traccia che andiamo a proporvi si intitola Battalions of Hate, la versione in studio si trova nell'omonimo album d'esordio del 1998. Dall'album History of Fear, da questo cofanetto nel quale trovate, oltre al DVD con un paio di concerti live, videoclip eccetera, anche questo CD dal vivo. Risale al periodo del 2001 al Wacken Open Air Festival. Abbiamo già ascoltato Angel in Black, Chainbreaker, Nuclear Fire e questa Battalions of Fear of Hate, scusate. Continuiamo con la storia della band. Arriviamo alla pubblicazione del sesto album in studio, Seven Seals, pubblicato nel 2005 e rivelatosi uno dei migliori lavori della loro discografia. A questo punto però si esaurisce il contratto con l'etichetta Nuclear Blast. Decidono di ricominciare con un'etichetta italiana molto attiva, quella di Napoli, alla Frontiers Records, per la quale hanno effettuato l'esordio lo scorso anno con un altro ottimo album intitolato New Religion, che viene pubblicato nel 2007. Recente è l'ingresso anche di un nuovo chitarrista, cioè Magnus Carson dei Last Tribe, oltre ad aver collaborato al progetto Allen Land e a Starbreaker. I Primal Fear suoneranno qui in Italia per due date, una la prossima settimana, il 17 di maggio al Motorock, che è un raduno, è un motoraduno, come dice il nome, che si terrà a Cremona, e poi il 21 di giugno al Mora Rock Festival a Moraro, in provincia di Gorizia. Io vado a proporvi quella che è l'ultima traccia che andiamo ad ascoltare dei Primal Fear, e quindi a chiudere anche questo nostro appuntamento di questa settimana di Hard and Heavy Live, che sarà anche l'ultimo, proprio l'ultimo, perché settimana prossima replicheremo questa puntata, visto che in nottata, settimana prossima, il venerdì è il 16 di maggio, io e Max Deriu saremo in onda dalla mezzanotte del venerdì 16 sino alle 6 del mattino con una lunga puntata di Hard and Heavy Nightmare, con tanto metal, tanto hard rock, glam, street, eccetera eccetera. Ringrazio coloro che stanno già scrivendo per questa nottata. Sarà presente anche Simone, che è il mio personale autore, quindi questo mi fa enormemente piacere, e naturalmente spero che siano in tanti all'ascolto. Detto questo, vi ringrazio, vi auguro un buon weekend, vi lascio con il pezzo che si intitola Fight the Fire, versione in studio nell'album Nuclear Fire del 2001. Erano i Primal Fear, era la voce di Marco Gravelli che qua vi saluta, vi auguro un buon weekend, ci ritroveremo il prossimo lunedì 2021 su Rock FM con un'altra puntata di Hard and Heavy. Ciao ciao! Something. I say this in English because there's so many people from all around the world tonight, and it's a fucking great pleasure to be back here in Wacken, and I hope you guys all enjoy it. Everybody, alright! Alright! You guys really have to fight the fire!